Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, siete su Blu Radio Veneto, in particolar modo nella fascia serale di Blu Radio Veneto, porta un nome semplicissimo, Blu Radio Sera, e noi vediamo un altrettanto semplice benvenuto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche oggi, anche questo martedì, un appuntamento live, come ormai nostra consuetudine proporlo ai nostri ascoltatori. E quindi diamo subito il benvenuto a chi ci è venuto a trovare direttamente da Roma e quindi salutiamo Fabrizio Emigli. Buonasera Fabrizio. Buonasera a voi, saluto prima gli ascoltatori e poi Maurizio e poi Flavio. Bene, grazie. Grazie. Una bella accoglienza. Grazie. Allora, Fabrizio Emigli, un breve quadro di chi è Fabrizio Emigli. Maurizio. Cosa possiamo dire? Breve. A me ha impressionato una cosa, Fabrizio. Tu chiaramente sei un cantautore che gioca, che costruisce, ma uno che ha diretto per 5 anni il Fox Studio, quello mi ha detto, questo bisogna indagare. Come mai questa grande passione è arrivata al Fox Studio? Questo indirizzo sul Folk Studio. Folk Studio è stato sicuramente il perno di tutto il cantautorato italiano. E non solo, anche del jazz. E non solo, del jazz a me. Ma guarda, per me romano Testaccino è un quartiere popolare molto vicino a Trastevere, dove nacque il secondo Folk Studio. Esatto. Era normale andare la domenica lì a sentire cosa accadeva in giro, quindi un tempo il Folk Studio era l'unico locale dove si faceva musica d'autore, dove la leggenda racconta che ci passò una domenica brumosa anche Bob Dylan. Esatto. Quindi esatto. Per noi era normale andare lì e vedere chi altro sarebbe passato quel giorno. E iniziai a andare lì come ascoltatore, quindi i primi concerti di Venditti, di De Gregori, di Giorgio Locascio, che prima con Flavio e con te ricordavamo, certo. Insomma, di Locasciulli. E poi vedevo passare Susan Vega, citiamo Rock. L'episodio di Susan Vega, l'ha citato con me mentre il microfono era spento. Infatti il meglio abbiamo detto prima. Sì, il microfono era spento, dobbiamo citare i nostri ascoltatori, sì. Amanti di un certo tipo di musica, me compreso chiaramente. E vecchi. Ma siamo giovani di spirito. Susan Vega come l'hai conosciuta? Dai. Ma lei veniva al Folk Studio, passò una domenica anche lei a Roma, e chiese qual è il locale dove si fa musica alternativa. E la portarono al Folk Studio, litigò subito col gestore perché era, comunque lui era un personaggio un po' difficile. Si sono in realtà sempre odiati, perché lei grande artista sul palco, però non so cosa accadeva in privato, lui non quadrava. Quindi io ero lì tra il pubblico, non la conoscevo, quindi per me era un artista come tante altre, e fece il famoso My Name is Luca. Sì, esatto, famosissimo, e poi ha preso anche Paolo Turci. Esattamente. Cantò questa canzone e chiaramente il pubblico rimase colpito, tra cui anche un giovanissimo Fabrizio Emigli. E capitava molto spesso di trovare nel pubblico anche un Mario Schiano, un Romano Mussolini al pianoforte. Che quindi magari, anche il jazz. Anche il jazz, ma lì nacque il jazz romano, Mario Schiano, Romano Mussolini, nacquero al Folk Studio, passavano da lì. Ed era anche normale la domenica, che era questo spazio libero dove chiunque poteva andare sul palco e suonare. Poi era il pubblico a decidere appunto. Quindi era uno spazio free, era uno spazio veramente free. E non c'era l'ascolto prima della cassetta, quindi venivano scelte gli artisti. Si andava lì e si suonava. E capitava molto spesso che magari Venditti facesse i cori a un giovane di passaggio. Certo, cioè, come si fa negli Stati Uniti, si fa all'estero, questo capita. Si fa ancora? Si capita. Andiamo tutti lì. Certamente. Negli Stati Uniti c'è questa. Cioè, se un artista è famoso, è importante, non importa. Non importa assolutamente. Cito un episodio di qualche anno fa, una band è venuta qua e mi diceva che un loro amico era in un piccolo locale in America, in un posto americano, una città americana piccola, e ha cominciato a suonare il violino, di caso è passato dentro il boss in questo locale e gli ha detto: "Cammè, vieni con me." E ha cominciato a suonare con accadeva il boss. La stessa cosa al e Fox Studio è la stessa cosa. Theolus Campus, che è il primo disco di Venditti e Del Gore. Esatto. Così. È nato proprio. Cioè, insieme andarono in RCA. Anzi, addirittura domenica, io mi ricordo che passavano i discografici. Ti ricordi i discografici? Certo, come si chiamavano? I discografici, era diverso. E mi ricordo Bigazzi, Bardotti, che erano lì nel pubblico. E ti fermavano a fine concerto e magari ti chiedevano qualcosa. Dove andavi? Io andavo in RCA con la mia chitarrona. E stavi lì e respiravi la musica. Quindi hai tu respirato e sei formato là praticamente. Sì, non so quanto bene, però mi sono formato al suo studio. Ti sei formato bene. E nei locali della RCA del tempo. Quindi certo, è stato un ambiente veramente sano, il Folk Studio. Ce ne sono stati poi altri dopo, il locale oppure... Però il Folk Studio era veramente un posto diverso. Io continuo a citarlo perché è un po' da nostalgico. un po' perché veramente avendone girati molti di spazi non ne ho più trovato, non conosco il folk club di Torino, non ci sono mai stato, penso sia un ambiente molto simile. Però sento i giovani sono tutti quanti orfani di quello spazio. Certo, certo. Allora, sono passati solo 5 minuti dall'inizio della trasmissione, siamo già entrati nel vivo della discussione legata appunto alla grande musica. Abbiamo citato almeno 20 grandi autori, però non perdiamo di vista, stiamo con Fabrizio Emigli per la presentazione di... vorrei dire un CD, però me ne hai già presentati alcuni altri, per cui ne ascolteremo anche per noi nuovi alle orecchie. Però direi, per conoscere meglio la musica di Fabrizio Emigli, di proporre già un qualcosa da quell'album che è datato 2007, che però adesso torna alla grande, si intitola Stelle in eccedenza, ha una copertina davvero particolare, ne parliamo più tardi, prima ci ascoltiamo il primo pezzo. Quale abbiamo scelto come primo pezzo, Fabrizio? Sì, vai Fabrizio. Allora, si chiama Contro gocce d'aceto, ed è il brano che apre il disco, ed è il brano anche che è stato scelto a Musicultura quattro anni fa. E ha fatto parte anche della compilation dei migliori 16 brani. Insomma. Bene. E vado. Contro gocce d'aceto. Gambe belle di carne e un sorriso da scema, ma la tua lingua è di seta e non la cambio. Io porto occhiali da sole sopra uno sguardo che trema, ho la barba di un mese e non la taglio. Le medichiamo col sale, le unghiate che ci lasciamo sembrano fili sottili di corallo. E i nostri baci randagi hanno l'istinto dei cani, sento stringersi al collo il tuo guinzaglio. Tu non ti meriti niente, neanche un piatto di uova, la tua bocca è un'alcova e lo confermo. Ma è chiuso in casa per ore da solo, con 3 gocce d'aceto e un passaggio segreto da trovare. Io organizzo trasferte ai tuoi vestiti da sera, vanno e vengono all'ombra dei miei armadi. Sulle tue braccia scoperte passo una luce severa, trovai un teschio di rosa al mio risveglio. Mio padre mi pettinava con il calibro e il fiato, pensavo fossero eterne le sue mani. Mi ha lasciato i suoi occhi e un calzante laccato, speravo fossero eterne le sue mani. Ora un dolore e un piacere, una paura e un segreto, e un dito rugoso da ciucciare. Ho un bersaglio, una prova, un lancio, solo una sfida e una nuova canzone da cantare. Hai gambe belle di carne e un sorriso da scema, io ho la barba di un mese e non la taglio, e non la taglio, e non la taglio, e non la taglio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sembrava quasi da disco, con 3 gocce d'aceto, nell'interpretazione dal vivo di Fabrizio Emigli, che abbiamo qui con noi nei nostri studi in carne ed ossa per presentare questo Stelle in eccedenza. Flavio, si vede che Fabrizio è uno che sa stare sul palco, no? Sì. si sente immediatamente, c'è poco da fare. Ci dispiace non avere uno scranno per lui per stare un po' più alto, ma si sente. Cioè, nessuna paura reverenziale, via. Esattamente. No, sì, io amo talmente tanto la musica, dove sento odori di musica, ho fatto, poi ne parleremo se vuoi dopo, testi per il cinema, certo. Ho fatto, insegno chitarra ai bambini, dovunque sento musica e sudo. E la sento come ho fatto, senza musica non potrei vivere, veramente, non è una frase fatta, insomma. Quindi il palcoscenico, la radio, il live, è una cosa che io adoro, non la scambierei con nient'altro al mondo, insomma. Certo, cioè, beh, si sente, abbiamo subito captato questo, immediatamente io e Flavio, e chiaramente anche gli ascoltatori, Chiara compresa, che poi ti farà anche le fotografie, chiaramente. Benissimo, all'interno di questo Stelle in eccedenza abbiamo notato, perché io e Maurizio abbiamo ascoltato il disco, abbiamo studiato. Abbiamo notato dei testi molto originali, molto, a volte molto ermetici, a volte metaforici, ma a volte molto espliciti. È forse il caso di queste Tre gocce d'aceto? Questa è abbastanza esplicita, non so cosa vi è arrivato, però una canzone che parla della libertà, che a volte un rapporto d'amore toglie. Alcune frasi come "mi hai chiuso in casa per ore da solo con tre gocce d'aceto", era un po' l'idea che a volte un rapporto d'amore, anche quello che parte con intenzioni migliori, possa poi portarti. E da lì poi il discorso della libertà in toto. Io parlo a un certo punto di mio padre, che era secondo me un uomo libero, un operaio metalmeccanico, che mi ha detto, che non mi ha tolto per esempio la passione della musica, non mi diceva appunto "ma che fai, perdi il tuo tempo a dietro la chitarra quando bisogna nella vita", ma mi dà appunto un senso di libertà, e mi ha lasciato veramente il calibro con cui lavorava e un calzante laccato, ma sono secondo me due simboli di libertà estrema. Sì, poi molto spesso quando scrivo canzoni parto da un'idea, parto da un titolo, da una frase, e poi lì non so cosa succede. Quando scrivi canzoni, tu tempo fa hai fatto un'intervista e hai detto una cosa molto bella, secondo me, e ti hanno chiesto come lavori, come fai la composizione, tu hai detto "ho blocchetti di appunti sparsi in vari cassetti". E quello è bello, è come una volta, ci usava una volta. Non lo so. Sì, così si usava. Adesso abbiamo il computer, abbiamo tutte queste cose meravigliose. No, certo. Però i blocchetti, certo, così. Era bello, secondo me. Ma io ho un rapporto con la mia vita un po' strano, un po' fatto di blocchetti. Io posso, come dicevo prima, faccio il grafico pubblicitario, certo. Quello è il mio mestiere, che mi dà da campare, insomma. E nello stesso momento, durante la stessa giornata, io posso buttare giù due frasi per una canzone. Prendere un blocco di disegni e fare degli schizzi, perché mi piace anche dipingere, mi diverto anche, e magari poi è un po' disordinato come modo di creare e di vivere la giornata, ma è il mio modo, certo. E anche quando scrivo ho dei foglietti sparsi con appunti, alla fine poi nell'assemblaggio qualcosa di sensato esce quasi sempre, a parte in un brano che Flavio prima indicava come paranoico, ed è vero, esatto. Sì, lo ascolteremo più tardi, però poi un senso c'è in tutto, sì, anche certo. Nell'arte visiva più astratta e più c'è, cioè, poi il senso c'è, e comunque voglio da l'ascoltatore, secondo me è democratico anche il fatto di buttare giù delle cose, darle in pasto e vedere poi cosa arriva. Adesso arriva poi il giusto. Certo, sono cosa, io... diceva Finardi anni fa, che abbiamo intervistato, che lui spesso viaggiava in treno. E quando avevo l'ispirazione, anche lui prendeva il blocchetto, sì, e scriveva, sì, anche fischiettava, esatto, mentre era seduto nel vagone. Era così, ma così si faceva. Sì, non si aspetta. Adesso sì, ci sono le giuste cose di evoleria, certo, elettronica, certo. Però lo spirito deve essere questo, io lo penso così, ho una certa età. Assolutamente sì. Adesso noi abbiamo citato che uno dei tuoi lavori è appunto fare il grafico pubblicitario. Ne approfitto subito per ricordare anche quello che è il tuo sito internet. Certo. Se lo vuoi dire tu, l'indirizzo corretto. www.fabrizioemigli, col GL, perché molti si sbagliano, .it. Perfetto. Benissimo, ecco, all'interno di questo sito, che io sono rimasto stupito per la bellezza dello stesso, per come vengono, come dire, mostrate le varie attività di Fabrizio, e sì, a partire da grafico pubblicitario, disegnatore, e poi con quest'album che si sfoglia anche online, vedendo proprio i testi delle canzoni formanti Stelle in eccedenza. Devo fare veramente i complimenti, perché sembra quasi di sfogliare anche se è bello farla in versione dal vivo, anche ecco, stiamo scartando un proprio CD in diretta. Ad esempio, io ci metto 10 minuti a scartarlo. No, il segreto è il pletro. Ha usato il pletro lui. Ai tempi di Maurizio, non nei miei. Sì. Sai che gli LP, non so se ti ricordi, si aprivano strusciando sul jeans un lato del... È vero. Allora, sai veramente. Se ti ricordi questa cosa qui, quella è la cartina di tornasole. Se ti ricordi quello, non diciamo l'età. E poi aveva un odore. L'odore del disco è un odore molto particolare. Ok, vai. Vabbè, sì, dimmi. Della grafica voglio dire appunto che ho fatto sin'immaginazione, ho creato un po' l'idea che questa della donnina immersa in questo piattino di stelle in eccedenza. Molto bello, perché... molto bello. Ma accadde una cosa strana, ero a Milano, in un pub, ero di passaggio a Milano, e vidi un quadro di questa, poi dopo scoprì, grande illustratrice, vidi un bellissimo quadro. E sono stato per un anno intero a cercare su internet chi fosse l'autrice. Alla fine l'ho trovata, che questa bravissima disegnatrice si chiama Arianna Fulvi, che vive a Milano. L'ho contattato e gli ho chiesto appunto se era disponibile a farmi le immagini. E le ha fatte. Bene. Quindi abbiamo messo queste immagini. Poi tra l'altro ho fatto anche il video di un brano di Mario Venuti, che era L'Officina era Fantastico, forse. Ha fatto un video animato molto molto bello. Una bravissima illustratrice. E anche lei è entrata nel progetto fino in fondo. Quindi è stata anche questa è una cosa molto strana che accadde. Quando mi venne l'idea di fare questo secondo CD. Bene, quindi invitiamo appunto gli ascoltatori a conoscere qualcosa di più di Fabrizio, oltre a quello che già sviscereremo all'interno di questa trasmissione, proprio guardando il suo sito che noi abbiamo guardato con vero interesse. Adesso spazio per un pezzo da disco, e per questo abbiamo scelto la traccia numero 4, che si intitola Quanto mi dai. Allora lo ascoltiamo insieme e poi torniamo qui in diretta con Fabrizio Emigli, Maurizio Calzavara, Flavio Bilato. Blu Radio Sera. Capirai frammenti di voci che sopporterai. Si fanno progetti per spingersi via, magari un passaggio in un'altra corsia. Capita di rado che qualcosa si avvera e l'emozione segna il fermo immagine. Sono distanze che cancellerei, lunghissime file che maledirei. Ti accorgi che è solo una foto sbiadita, l'abbraccio finale di questa partita. Capita che a volte poi qualcosa va male e ti rimane in tasca solo cenere. Qui non c'è tempo, non c'è tensione, solo lunghissimo invio da rifare. Qui non c'è campo, non c'è segnale, ma dimmi quanto mi dai. C'è poca luce, neve sottile, su questa calligrafia da scoprire. Ci vuole fiato, se ne troviamo, per dirci quanto mi dai, quanto mi dai, quanto mi dai se ti chiamo. Sono dettagli che non sprecherei per rendere al meglio quel niente che hai, e ci illumineranno per sempre se le raccoglieremo in un frame le luci pulsanti di questo display. Leggo nei messaggi di chi resta in attesa, lo stupore vero di ogni epilogo. Qui non c'è tregua, non c'è confine, non sfileremo in nessun lieto fine, per quattro sguardi da riciclare, puoi dirmi quanto mi dai. C'è troppa luce che non aiuta a sollevarci da qualche caduta, noi nel frattempo che ci giochiamo per dirci quanto mi dai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati questo bel pezzo da Stelle in Eccedenza, Quanto mi dai? Abbiamo qui a commentarlo insieme a noi Fabrizio Emigli. Allora, Fabrizio, quanto mi dai? Quanto ti ha dato questa canzone, questo componimento? Questo componimento mi ha dato tantissimo. Perché ne raccontavo prima sempre fuori onda, le cose più belle le raccontiamo fuori. Sempre fuori onda. No. Bisognerebbe tenere sempre il microfono leggermente puntato. Ma tanto ripetiamo, sì. Guarda. Sì. Quanto è bello prodursi un disco, per esempio. Cioè, la fatica che la hai fatica di fare un disco. Tu pensa che per fare questo disco, io ho chiesto agli amici di comprarsi i miei quadri, i miei acquerelli, e di dare un prezzo simbolico. Quindi compravano i miei acquerelli, e chi dava 10 euro, chi dava 2000 euro, e con quei soldi abbiamo fatto il disco. Quindi chiaramente sei finanziato così, insomma. Sì, finanziato così. Ma c'è anche chi si fa i film in questo modo. Certo, c'è Silvano Agosti, un regista indipendente, coraggiosissimo, che ha aperto a Roma una sala che si chiama Azzurro Scipioni, che fa ormai i suoi film in questo modo. Quindi la gente va al cinema, ha una cassetta, proprio l'obolo, e ci mettono dei soldi, e con quei soldi lì riesce a prodursi dei film. Io ho fatto più o meno la stessa cosa con il mio disco, quindi, e con l'aiuto di amici veramente cari. E quindi mi ha dato molto da questo punto di vista, dal punto di vista dell'aspetto creativo, quindi nel momento in cui ho scritto queste canzoni. E poi andare in sala con questo pugno di amici musicisti e suonarci le cose dal vivo per più di un giorno, e poi registrarle nel modo un po' affrettato, chiaramente, perché poi i tempi, avendo pochi soldi a disposizione, sono quelli lì. Però, vogliamo anche citare quelli che sono stati gli accompagnatori per questo disco. Io li cito leggendoli sul CD, che sono Massimo Alviti alle chitarre. Massimo Alviti ha suonato con Rodolfo Maltese, chitarrista del Banco, con Indaco, quindi con molti musicisti. Andrea Avena, grande contrabbassista e insegnante di solfeggio a Roma, alla St. Louis, che suona con Nicola Piovani e con tanti altri. Alessandro Guis, grandissimo pianista, eccelso, Morandi e tanti altri. Alessandro Papotto, attuale sassofonista del Banco del Mutuo Soccorso. Ezio Zaccagnini, che ha prodotto artisticamente anche il disco precedente, il mio disco precedente, e Stefania Stefanini, grande amica ai cori. Al mixer c'era un immenso Maurizio Capitini, fonico dell'Auditorium di Roma, quindi che sì, aperto. E poi c'era anche un'altra, oltre a Capitini, un'altra sorpresa, giusto. Un certo Shanky. Guarda, Shanky, io entrai in questa saletta, le cose che accadono, le cose belle della musica, entrai in questa saletta, e questa cagnolina mi saltò addosso subito per farmi le feste, insomma. Io dissi, mi sembra la sala giusta. Poi veni a sapere che fu trovata qualche mese prima bruciacchiata in un campo di Roma, e malmenata e bastonata. Ed è una cagnolina che è della pianista di Nicola Piovani, che si mette sotto il pianoforte nei più grandi auditorium di tutta Europa e sta zitta, immobile, per 2 ore a ascoltare la musica. Perfetto. Quindi ho detto, questa qua è la sala. Certo. Quindi ho fatto subito il contratto e infatti al mix c'è una foto sul CD, lei sta al mix, sì, sì, e stava veramente così per il tempo della canzone, non era messa apposta lì per fare la foto, si piazzava lì e ascoltava la musica, quindi ho detto questo qua è il mio, se piace ai cani. È una grande intenditrice allora, sicuramente. Sembra sia lei la regina dei cursori poco si manca, comunque molto attenta soprattutto alle sonorità di questo disco, e questa è l'unica stella che non è in eccedenza. Ci sta proprio alla perfezione. Tu hai detto prima, parlando sempre a microfono spento, che non c'è il produttore, perché adesso esistono ancora i produttori? Esistono ancora i produttori? Esatto, siamo noi i produttori, cioè gli artisti praticamente. O andiamo a grandi vette, ma siamo a altissime vette, sì. Parliamo di Daniele Anouà, per esempio, sì, esatto. O Brianino, ecco. Sì, esatto. Allora, è un altro mondo. Certo. Però... L'artista per poter andare avanti deve autoprodursi, come hai fatto. Assolutamente te. Sì. C'è niente a fare. Ma guarda, anche i grandi si autoproducono. Io leggevo che Iannacci è uno che per molto tempo non ha trovato un produttore, un distributore. Nel mondo, mi sembra anche Paul Simon abbia prodotto. Beh, l'ultimo disco ha avuto difficoltà anche a trovare l'etichetta, poi l'ha trovata, ci ha distribuita dalla grande etichetta solita, però anche lui, nonostante che sia Paul Simon. Non sarà troppo pessimista il discorso che stiamo facendo, non tanto per noi e per me, no, perché la paura che ho io è sempre questa cosa. Però è questo sta. È la realtà delle cose, non è pessimista. La cosa bella è che c'è una nicchia che si muove bene, internet. Quindi molti lanciano i prodotti come se fosse veramente sassolini nello stagno. E qualcosa sta accadendo, quindi da questo punto di vista è veramente la nuova piazza virtuale. Si sta muovendo. E si muovono molte cose, e sento molte cose belle in giro. Però poi c'è la difficoltà di poterci campare. Perché di cose belle in giro ce ne stanno, bisogna andare lì con... Anche di esporle, però c'è la difficoltà. Di esporle, esatto. Di farle sentire. E quindi qual è la formula? Io chiedo a te perché... qualche... La formula deve venire qua a suonare in radio, questa è la formula giusta. Ah sì, no, assolutamente. La formula giusta è questa, vero Flavio? Cosa anche dici? Sì, ma perché di fronte a tutte queste major che si impongono sempre di più e con risultati sempre più scarsi, a mio avviso, in certe situazioni, vale la pena trovarsi i propri idoli via internet o farsi consigliare da amici che già li conoscono. E questa è anche una cosa che stiamo seguendo noi come Blu Radio Veneto. Certo. Tra l'altro sono qui anche perché Andrea Papetti, sì, che è un carissimo e bravo cantatore giovane, ci siamo conosciuti su Facebook anche con lui. Tu pensa, lo conosco su Facebook, un cuore grande, immenso Andrea Papetti, oltre ad essere un grandissimo cantatore, giovanissimo cantatore. Ci conosciamo su Facebook, io stavo per andare a Musicultura a fare la semifinale, non ricordo. Lui mi disse, non ci conoscevamo, mi disse ti metto a disposizione la mia casa con tutti quanti i musicisti per venire qui e non pagare l'albergo. Non ci conoscevamo. Poi ci siamo conosciuti, è nato un bel rapporto d'amicizia e poi anche un rapporto professionale, diciamo. Sì, sì. Io ho fatto la copertina del suo disco, abbiamo fatto un concerto insieme a Grotta Mare, quindi le cose in rete accadono, se c'è poi il tam tam quello giusto, le cose si muovono. Poi però manca il momento finale, o vai a X Factor se ti ci mandano, oppure le radio, ma non tutte quante hanno il coraggio che avete voi, che io vi ringrazio veramente col cuore perché ci vuole coraggio. Oppure rischiamo di non ascoltare molte cose belle, questo mi scoccia molto. Questo è vero, però noi abbiamo coraggio e cerchiamo di espandere questo coraggio. A proposito di coraggio, dobbiamo sottolineare che grazie al nostro direttore artistico Alberto Prisco stasera sei qua. Quindi... Ma lo conoscerò stasera, no? No, lui ti saluta. Ti saluta, ti sente. Il direttore artistico. Ti sente. Come tu sei stato direttore per 5 anni, lui sta cercando di dirigere questa grande macchina. Il discorso della direzione artistica del Folk Studio nasceva in maniera molto semplice. Perché andavi giù e ti diceva, ti va di seguire questi giovani, diceva Giancarlo Cesaroni. Io dicevo, vabbè, che devo fare? Mettiti lì, ascoltali e farli suonare. Quindi dagli anche le regole che erano giuste del Folk Studio. Quali erano le regole del Folk Studio? Una su tutte, non si parlava in sala. E non si portava il bicchiere di whisky in sala. Si beveva fuori. E poi all'interno, mentre l'artista suonava, non si disturbava. Né con le chiacchiere, adesso dovunque vai, il pubblico parla. Certo. Questa cosa mi fa arrabbiare in un modo esagerato. E non si bivaccava nella sala. Quindi si beveva, si mangiava fuori. Si beveva soltanto fuori dal locale. Fuori dallo spazio concerto. Questa era la prima regola. Rispetto per tutti quanti gli artisti. Lo stesso spazio aveva De Rigori, che faceva l'ospite la domenica, e lo stesso spazio aveva il cantatore giovane di passaggio. Ed è giusto che sia stato così. Giusto che sia stato così. Certo. Sta cosa pagava, nessuno si sentiva né inferiore né superiore agli altri, insomma. Bene, allora adesso noi non beviamo, non fumiamo, non si può fare, non si può fumare all'interno degli studi, né noi siamo dei fumatori, vero Maurizio? Assolutamente no. Ecco. Allora ascoltiamo qualcosa dal vivo come se si fosse al Folk Studio. Bene. Cosa ci proponi Fabrizio? Un brano che era nel primo disco, nel primo CD, tra l'altro distribuito da Storie di Note, il primo, sì, quindi da un'etichetta, una distribuzione vera, che è Un bicchiere di vino gelido. Cameriere, mi porti il fulmine più rabbioso che ha fatto Dio. Non ho spiccioli, ho quattro lacrime, faccia un Cristo sul conto mio. Mi sfiato dalle orecchie l'anima, lui soffiandoci la freddò. Poi sull'unica traccia libera registrò la mia pena. Ed un bicchiere di vino gelido colato in gola con un sospiro, fino a inseguirne il bruciore e il brivido e il succo dolce da capogiro, dietro stracci di sguardi complici a inventarci ferite e spose, dentro un alito giallo e infetto che sfoca le cose. Cameriere, mi faccia causa che scateno i miei piagnistei. Creda a me che ho memoria gravida e dolori sputati ai suoi. Ho visto chiaie mai più riemergere da carpiati nel vino chiaro e i cristalli dei vuoti a perdere conficcati nel muro. Ed un bicchiere di vino gelido sparato in gola mirando al cuore, fino a sentirne il percorso liquido sbiadirci carichi da calare, dietro sbarre di sguardi immobili dacci il male che fa più male. E un bicchiere già capovolto per farci brindare. Cameriere, mi porti il fulmine più rabbioso che ho fatto Dio. Non ho spiccioli, ho quattro lacrime, faccia un Cristo sul conto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato un pezzo che non conoscevamo e l'abbiamo conosciuto adesso proprio con i nostri ascoltatori, questo Un bicchiere di vino gelido. Che è una canzone che sta nel primo disco, alla quale sono molto legato per un fatto tristissimo che devo raccontarvi, perché certo, noi cantatori siamo gente strana, e la sera stessa che morì mio padre io andai in, gli amici intorno chiaramente, gli amici quelli giusti, e andai in un locale, andai la sera a bere e stare un po' con loro chiaramente, mi fecero questo grande regalo, e la sera stessa scrissi questa canzone, quindi arrabbiato come una iena, triste come giustamente, certo, però scrissi questa canzone appunto pensando a questo cameriere che veniva lì, cercava di scherzare ma non sapeva niente di quello che era successo, e io gli chiedevo appunto da bere, e da lì poi ho cercato di raccontargli la storia, lui mi ha guardato strano, quindi è passato un momento in cui mi diceva beviamo insieme, scherziamo, ha fatto di quasi chiedermi scusa, invece dicevo guarda no, perché in realtà anzi raccontarti quello che mi è successo a me fa bene, e mi rese conto poi che fece bene anche a lui, perché poi mi raccontò della morte di suo padre, e fu una serata alla fine che finì bene in qualche maniera. Quindi la sera tornai a casa e scrissi questa, butta giù questo testo e poi lo musicai subito. Quindi... Perché il cameriere, a quanto pare, tra un servizio e l'altro, aveva bisogno anche lui di comunicare che non fosse stato il solito mezza coca o una birra media e così via. Esattamente, questo accadde, quindi un bel ricordo di quel cameriere e della sera in cui morì mio padre, insomma, scrisse questo. La differenza tra il primo disco e l'ultimo, quello che uscirà fra poco... Deve ancora uscire. Speriamo. Speriamo. Ma che differenza c'è stata tra il primo disco e il secondo disco? Allora, intanto il primo all'interno canzoni scritte nell'arco di 20 anni. Quindi una specie di gretistizia, possiamo sì, dire. Diciamo di sì. I pezzi più significativi. Più significativi. Io ho scelto questi brani che facevo in concerto. Tra l'altro anche qui il mio batterista, che ha sempre creduto in me, un amico fraterno, Ezio Zaccagnini, disse appunto, c'è un produttore siciliano, anzi lui organizzava concerti in Sicilia, che vuole conoscerti e vuole farti questo tour in giro per i paesi siciliani. Io non ero mai andato in Sicilia, non ci avevo mai suonato. Andai giù e lui, anche lui, pazzo e coraggioso, organizzò un mini tour di questo artista semi sconosciuto, che ero io, certo. Per le piazze di Gela, di Mascalucia, di Palagonia, dei paesi più belli tra l'altro della Sicilia. E a fine tour la gente chiedeva il disco che non c'era. Quindi lui disse, ma perché non facciamo un disco? Gli disse, certo. Caccia i soldi, tira fuori i soldi. E così fece. Ah, ho capito. Parte della sua pensione baby, lui la mise per questo disco, che ebbe anche un discreto successo, distribuito inizialmente soltanto così bravi mano, da noi durante i concerti. Poi subentrò Storia di Note, che era questa, non so se c'è ancora, penso di sì, che questa etichetta di distribuzione. Sì, mi pare di sì, che ci sia ancora, sì, sì. Molto coraggiosa. Sì, sì, sì. E che lo distribuì a livello nazionale, insomma, quindi il disco nacque così, quasi per caso, per un discorso live, con questo produttore coraggioso e pazzo anche lui, e poi arrivò a Storie di Note e fu distribuito bene in tutta Italia, sì. Praticamente. E poi siamo arrivati a Storie in Decedenza, che è il disco, anche dal punto di vista forse più fatto proprio da disco, cioè nel senso, sì. Non è una raccolta di vecchi pezzi. No, cioè. Io continuo a scrivere chiaramente, certo. Dissi appunto, ho bisogno di fare un secondo disco. E di farlo anche con le sonorità che amo di più, quindi musicisti che vengono tutti quanti dal jazz, sì. Quindi musica, sonorità più morbide, più legate alla canzone d'autore, anche se poi secondo me è cantautore anche Sting e anche Rufus Van Wright. Cioè, a proposito di questo, tu hai detto che questo musicista americano è uno dei tuoi dischi più interessanti, preferiti. Ma secondo me è il più grande autore di canzoni che abbiamo in questo come momento. Come mai? Rufus? Così tanto Rufus? Prima era Elvis Costello, anzi lo è ancora. Lo è ancora, nella tua biografia c'è scritto è ancora. Poi ho scoperto per caso questo stranissimo artista che ama follemente il melodramma italiano. Sì, è vero. Che ha un padre bluesman, una famiglia di Ryan Wright, sì. Il padre Ryan Wright, la madre, la sorella che è Marta, che è bravissima anche lei. E la prima volta che ascoltai in radio un suo brano rimasi folgorato e non riuscii a capire chi fosse per un po' di giorni. Poi la ricerca appunto e trovai questo brano legato a... faceva parte di questo disco che è One to One, un disco meraviglioso. E secondo me è il più grande autore di canzoni che c'è in questo momento. Ascoltato poi dal vivo, l'hai visto dal vivo, voce a Roma, grande presenza sul palco, grande, parlavamo prima di artisti che non citiamo, che magari nel disco sono molto bravi, scrivono benissimo, poi sul palco in realtà si perdono, no? Lui invece è un grande performer, un grande autore, un grande artista da palco, insomma. E secondo me è quello che sta scrivendo le cose migliori dal punto di vista proprio delle canzoni, perché la canzone ha un requisito chiave, che è quello lì di strofa e di inciso. Lui è uno che sa scrivere veramente bene canzoni e l'ho uscito perché comunque è un grandissimo. Qualcuno artista. Anche ha detto però che non è che dal palco qualche volta ha degli atteggiamenti un po' così, ma e qualche volta è capitato. Lo so, lo fa, è vero. Molto così. Strano, un personaggio molto bravissimo. Però bravissimo. Ha dei momenti in cui un po' così celestiali, rose celestiali. È vero, capita, però, ai grandi artisti capita. Vedi Van Morrison è un episodio. Van Morrison ne ha tanti, parecchi. Magari in ascolto non diciamo niente, però ne ha tanti di momenti. Stiamo piacevolmente conversando con Fabrizio Emigli, stiamo parlando dei suoi lavori. Un altro pezzo che abbiamo scelto per inserirlo in questa serata di belle parole. Da Stelle in Eccedenza ancora un pezzo dalle sonorità davvero piacevoli e particolari, si intitola Una pietra sopra. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. partirò con le mie gambe su campi seminati a sale, tracciandomi un sentiero dolce da dove risalire. Avrò vento a favore, il buio di un palmo immenso che mi copra, più indietro lascerò il passaggio ed una pietra sopra. Mi piazzerò sotto il passato e aspetterò che torni, sputandogli una vita in pochi giorni. Rimuoverò il tuo addio, cambiando gli abiti e le scene, mi farà bene. Ripasserò sulle tue tempie, fingendo di esserne il sudore. Avrò la cortesia di sempre nel collocarmi altrove, e intanto sceglierò con cura un barco nuovo che si riapra. Seppellirò ogni mia paura con una pietra sopra. Rileggerò il passato e ne distribuirò le parti, perché lascio l'incarico di amarti. Incasserò il tuo addio e come ogni perdita normale mi farà male. Mi farà male. Mi sdraierò sotto il passato e ne aprirò il motore, smontandolo per farlo ripartire. Rimuoverò il tuo addio, spostando gli abiti e le scene. Mi farà bene. Radio Sera. Blu Radio Sera. E senza nulla togliere a tutte le 13 tracce che compongono Stelle in eccedenza di Fabrizio Emigli, questa canzone, questa melodia, Una pietra sopra, è quella che mi ha regalato dei momenti di vera intensità. Perché sei un romanticone. Sono anche un romanticone. Ma hai visto anche il video su YouTube? Abbiamo visto tutto, Fabrizio. Racconto le quante volte hai lasciato e quante volte sei stato lasciato, perché la canzone quello racconta. No, una canzone a cui sono molto legato, un'altra delle canzoni sofferte, chiaramente, perché la storia. Io scrivo, non so se poche o tante canzoni d'amore, non l'ho mai capito in realtà, perché spesso nelle canzoni c'è sempre una frase, un'idea che parla d'amore, ma in realtà di canzoni d'amore io ho scritto una, quella, che è Una pietra sopra, appunto, che parla di un amore finito, che lascia a volte amarezza, ma poi anche il gusto di ricominciare da capo. Quindi io penso che ogni storia d'amore, d'amicizia, porta dietro questa energia, che è quella appunto di dire ok, finisce una storia, finisce la porta, ma poi si ricomincia con una nuova energia. E la canzone racconta questo qua. Quindi sono contento che Fabio sia stato colpito da questa canzone, perché vuol dire che vive gli amori in maniera intensa. Sì, a proposito di energie, ne hai in mente tante, perché sei anche, hai fondato una rivista letteraria, Mente Locale. Mente Locale. Vai, parliamo del, oltre al cinema, poi parliamo anche del cinema. Parliamo di Mente Locale, questa rivista letteraria. Che non c'è più, chiaramente. Non c'è più, però l'hai fondata, finiti. L'idea, allora, l'idea come l'hai avuta? Testaccio è un quartiere molto bello, popolare, dove c'è la sezione di partito, l'oratorio, e spesso queste realtà si mischiano. Quindi le stesse persone che vanno in oratorio magari vanno anche nella sezione politica, vanno anche alla, al centro culturale, così. E con un gruppo di amici, amanti della poesia, amanti della fotografia, amanti della canzone, ci riunimmo in questo spazio, che ci prestò appunto una serie di partito del mio quartiere, e cominciamo a raccogliere scritti. Quindi cominciamo a raccogliere scritti, tra l'altro scritti anche di Paolo Virzì, che è il regista, che è amico di amici dei nostri amici. Certo, sì. E a un certo punto li leggevamo durante i nostri incontri, quindi li aprivamo, sfogliavamo, scegliamo i migliori e li leggevamo. E abbiamo detto, cosa farne di questi fumetti, disegni? Facciamo una rivista letteraria, facciamo una rivista. Quindi riuniamoci in redazione una volta a settimana, scegliamo le cose migliori e le pubblichiamo. E poi le vendiamo in giro per il quartiere e le facciamo. E in realtà ci inventiamo anche dei caffè letterari in cui presentare al pubblico, a un pubblico pagante, insieme a un buon tè, un buon bicchiere di vino gelido, le canzoni e i testi, le poesie delle persone che mandavano poi regolarmente questi film. I suoi scritti, i loro scritti. I loro scritti, insomma. Con una redazione di coraggiosi, di volontari. Quindi certo. Che stampavano il giornale, lo distribuivano, raccoglievano scritti e poi trovavano anche i soldi per stamparli. I soldi a un certo punto sono finiti, la rivista è finita. Però è stata una bella idea. Sì, una bella idea. Certamente. Era molto simile poi al Full Studio, era molto simile poi al locale che ho provato anche ad aprire. Insomma, io comunque sento che c'è un'esigenza, una richiesta da parte di... Provo a trovare una risposta in qualche maniera e a volte sono riuscito. Poi l'età che avanza, poi gli impegni di lavoro e altro portano poi a non farlo più. Però secondo me è un peccato ed è giusto che... E tutto si accomuna con la libertà di espressione, la libertà di cantare, suonare, scrivere, la propria libertà di espressione. Sì, io credo che senza tutto questo la vita non abbia senso. Beh, faccio un discorso forse troppo grande, però credo che sia così. No. Noi si parlava prima di risposte, allora abbiamo una sorpresa, abbiamo un ascoltatore che è anche un amico su Facebook di Fabrizio Emigli e vuole farti alcune domande, quindi diamo il benvenuto anche a Gino, l'ascoltautore. Oh, buonasera Gino. Buonasera. Buonasera Blurato, agli ascoltatori e soprattutto a Fabrizio che mi sta deliziando con tutte le belle cose che non diciamo da vecchi, da esperienze passate. Da vecchi parla per te. Come stai Fabrizio? Io molto bene, è una vera sorpresa perché io conosco la tua faccina su Facebook, so come scrivi, la voce adesso la conosco finalmente e poi mancherà conoscerci di persona. Eh sì, prima o poi ci capiterò al Keaton, visto che tu ci hai visto lì, no? Lì tra l'altro Simona Vincola, che è la persona che l'ha fondato, è un altro giovane artista, bravissimo e coraggioso. E io proprio questo volevo chiederti, visto che tu ne hai passati un po' tanti di artisti, ne hai masticati parecchi di cantautori, come vedi il panorama romano dei cantautori giovani? Sempre fuori onda ne parlavamo prima con Maurizio e con Flavio. Io non c'ero purtroppo. Mi dispiace per te. Prendi un treno al volo e raggiungici. Adesso parliamo in onda, quindi. Guarda, artisti bravi ce ne sono. Io romani e non soltanto romani. Io amo molto un artista che ha fatto forse un solo CD, che è Alessio Caraturo. Credo che sia napoletano, conosciuto per questa remake, per questa cover di Goldrake, cover d'autore secondo me molto bella, che ha fatto un disco meraviglioso, che è appunto questo suo primo e unico disco per il momento. C'è un giovanissimo che si chiama, no, non voglio citarlo perché poi insieme a un altro gruppo di giovani che sto seguendo, la realtà musicale romana è molto in fermento. La cosa che poi manca sono i soldi per fare i dischi. Molto la famosa più... uscita. La famosa uscita, perché molti si autoproducono. Simona Vincola, che citavamo prima, si autoproduce e fa una fatica immensa. Poi ha la fortuna di avere questo suo locale dove puoi esibirsi e dove fai esibire molte persone, ma fa una fatica immensa. Andrea Papetti, che è un bravo artista, Luigi Mariano, che è un altro cantatore. È venuto qua anche lui. Sì, di Salerno. Gabriele Intelman, ma sono tanti gli artisti, io non voglio citarli perché poi fine non voglio... Sì, vabbè, pare brutto pure pare brutto. A fare dei nomi, ma però sono voglio tanti. Dire, come vedi il panorama in generale dei giovani? Guarda, c'è fermento, di cose belle ce ne sono tantissime, fanno presto però poi a mollare i remi, cioè a mollare. In realtà non, io ho quasi 50 anni, non faccio questo mestiere per campare, ne faccio altri. E la cosa bella che ho, una sorta di pazzia che mi porta a dire, appunto, io ho ancora qualche cosa da dire, ancora un po' di voce mi regge, ho ancora voglia di... Scusami, a questo proposito posso dire che ci sono altri giovanotti, tipo De Angelis, tipo Lino Cavallo, che hanno ancora da dire tutt'oggi, vero, a 20 anni di distanza, cioè hanno ancora da dire. Guarda, il fatto che Vecchioni ha vinto Sanremo non è casuale. Nell'aria c'è qualcosa che per fortuna si sta rimuovendo, e il pubblico non è scemo. Possiamo anche fargli ascoltare Lady Gaga 20 volte al giorno, e nulla da togliere Lady Gaga, ma se poi arriva Vecchioni, mio nipote 22enne, che ascoltava fino a ieri soltanto Ligabue, dice cavolo, che cos'è sta cosa bella, e poi il pubblico risponde, premia e lo fa vincere a Sanremo. E sulla scia di questa cosa qui poi Edoardo De Angelis ha fatto il primo maggio dopo molto tempo, certo. E ha di nuovo, io lo conosco bene, è stato uno dei miei primi produttori, un'energia positiva che ce la trasmette poi, questi vecchiarelli che sono lui, Finardi. Ma lo stesso Mimmo Cavallo con Terroni, non vero, so se sì, come no, Mimmo, tra l'altro adesso sta andando alla grande, dopo 20 anni, in effetti. C'è fermento, e io chiederei, insomma, a te invece, Gino, cosa senti nell'aria, cosa sta accadendo? Perché io mi rendo conto fino a un certo punto. Quello che dico sempre io, che la musica d'autore, il cantautorato, sta covando sotto la cenere. E infatti si vedono un po', già si iniziano a intravedere i risultati, insomma, no? E qualche nome di bravo che ascolti? Ma io ultimamente mi sto andando proprio su Simone Avincola, per fare Luca Bassanese, per esempio, Valerio Pilleri, anche se si è un po' andato, Luigi Mariano lo stesso, Pigi, cioè ce n'è sta di gente. Ah, Pigi, grande, che ha vinto tutti i premi d'autore possibile e immaginabile, sì. Tra l'altro anche lui... Io volevo allacciare proprio a questo, sì. Non dimentichiamoci che tu hai vinto la seconda edizione del Stefano Russo, che è un altro grande della storia musicale cantautorale italiana. Tra l'altro io ho avuto la gioia di conoscerlo bene, Stefano, personaggio difficilissimo. Era più le volte che veniva al Folk Studio e troncava i concerti a metà, oppure, ma era la sua anima. Lui non era uno che amava follemente e odiava follemente. Ho avuto la fortuna di essere premiato, fra l'altro, dalla sua figliola, dalla sua figlia, Stefania. Sì, infatti a Stefi. Sì, Stefania, grandissima donna, grandissima, che porta avanti il nome di Stefano. Tra l'altro ha avuto da poco un figlio che ha chiamato Stefano. Una cosa infatti, fatto... come stavo dicendo io, è uscito un libro proprio adesso, cosa ne pensi di Stefano Russo? Sì, Stefano tra l'altro che ha scritto cose bellissime, poi è vero anche che era un personaggio difficile da gestire, andava a Sanremo e dimenticava i testi, però sono pazzi i musicisti, cioè Piero Ciampi, io ricordo... veri, sono pazzi, è vero, così. Io avevo, penso, 14 anni, andai in RCA e c'era una volta la presentazione di un disco di Piero Ciampi, lui si alzò in piedi ubriachissimo e non vi dico cosa disse, forse Melis, non so chi era il produttore, però questo sono gli artisti, un artista leccatino, bravo, io non sono un artista, perché sono troppo bravo e... Però quando c'è dai diamanti non nasce niente, non voglio citare il poeta, insomma, però dai diamanti non nasce quasi nulla, insomma. Sì. E gli artisti sono difficili da gestire, ma la bravura dei discografici era proprio questa qui. Eh sì, Ciampi era l'artista maledetto tra virgolette, italiano, quello. Parlavo prima di Bassignano, ma il primo 45 giri di Sergio Caputo l'ha prodotto Bassignano. Non lo sapevo, conosciuto al Folk Studio. Quindi accadevano queste strane, adesso non so più, adesso si sta a casa, attaccati a Facebook. Si crea questo il male, però c'è giro l'ascoltatore, c'è il discorso della distribuzione che non gira in Italia, cioè vogliono essere pagati, è anche questo che limita un po' la situazione. Però non ho capito a chi, scusami, la distribuzione, dicevo, è anche l'altro neo della situazione musicale in Italia, cioè in effetti è difficile riuscire a far distribuire da una bella etichetta se non merci soldi parecchi, quindi tu già metti che ti autoproduci, poi devi pagare la distribuzione, quindi Si crea un po' il dramma. Guarda, siamo tutti quanti tornati al, che forse è anche bene, Maurizio prima lo diceva, al carrettino in legno, in cui a un certo punto si arriva in un paese polveroso di non so dove, si alza il tendone rosso, si tirano fuori le pozioni che fanno rinascere i capelli, che sono le nostre canzoni, e le vendiamo appunto a gente di passaggio. Poi arriva la polizia, ci butta giù il carrozzone. Ma questo sta accadendo, ma accade anche ai grossi livelli. Ma accade solo in Italia, diceva Michele Gazik, che è un violinista bravissimo, che ha suonato... Ha fatto 365 concerti con Mark Olson, ex leader dei J-Hawks, che lui ogni giorno andava nei supermercati a vendere i dischi. Quindi non cambia niente. Non cambia niente. E quello era negli Stati Uniti e siamo in Italia, non cambia niente. È la stessa cosa. Concordo anch'io in questa versione dei fatti, è così, è così. Gino, ma tu compri CD o scarichi tutto? No, io per fortuna non dico il tuo indirizzo, non dico il tuo indirizzo, il tuo cognome vero. Magari vi metto in contatto poi fuori dalla diretta. No, sinceramente ho la fortuna, proprio perché dal nome ascolta autore, che parecchi mi rimandano. Vedi. Sei fortunato. Cambierò anche un cognome. Ha una radio in casa. No, tutti, era impossibile. Certo. Comunque abbiamo capito che il nostro Gino è un grande esperto di musica e conosce bene il mercato, come si sta muovendo e soprattutto anche le leggi economiche che lo muovono. Questo vi dico che io credo la gente sta iniziando a pensare di nuovo, a ripensare, perché da un po' di tempo non si pensava più nelle canzoni, e sto notando che i ragazzi iniziano a pensare, lo fanno soprattutto con Rino Gaetano, cioè tu hai citato Orecchioni, anche Rino Gaetano è un modo di avvicinare i giovani al cantautorato, insomma. Anche se poi non demonizzerei neanche quei personaggi che sono Fabri Fibra o Caparezza, che scrivono dei testi bellissimi, non sono connotati tra i cantautori italiani, ma secondo me sono dei grandissimi autori di testi e di musica in quel livello. Sì, concordo anch'io. Però sono dei testi meravigliosi, secondo me, anche con dei contenuti letterari alti. Forse il nuovo cantatore è quello. Va benissimo così. È il messaggio che bisogna trasmettere. Quindi lo fai rap, lo fai reggae, lo fai rock. È il messaggio che va. E secondo me anche la bellezza dei testi. Cioè, metterci un po' più tempo nella scrittura dei testi non sarebbe una cosa valida e giusta. Benissimo, allora... Io non voglio rubare più tempo, perché magari mi fate sentire pure qualche canzone. Appunto per questo. Allora, benissimo, hai capito Gino, grazie per il tuo... Grazie a voi, soprattutto a Blu Radio, perché si dà da fare per voi artisti del sottobosco, insomma, musicale. E ti mandiamo i saluti anche di Alberto Prisco, che sappiamo tu conosci sempre via Facebook, il nostro direttore. Sì, ci sentiamo spesso con Alberto, è vero. Ecco, benissimo. Ma con tanti artisti poi mi sento spesso, ecco perché la mia passione per la musica. Perfetto, allora grazie Gino, stai ancora in ascolto, perché adesso Fabrizio ci regalerà ancora qualcosa. Delle perle, ok. Grazie Gino. Un abbraccione. Allora, per accontentare il nostro Gino, cosa ci fai ascoltare dal vivo? Non era Scaletta, l'ho messa davanti perché si parlava appunto di Stefano Rosso. Certo. E questo è il brano che ha vinto, col quale ho vinto la seconda edizione del premio Stefano Rosso. Ed è il primo brano che metterò nel prossimo CD, che è già in fase di missaggio, quindi potrebbe essere... È quasi pronto, dai. Quasi pronto. Entrerò giovedì per fare l'ultimo missaggio definitivo, spero. Si intitola E poi più niente. Vi scrivo da questo frammento di stella, instabile come a cavallo su un'onda del mare. Lascio a voi decifrare la rotta e il sistema celeste per potermi trovare. Io vi scrivo perché non ho più neanche un filo di voce, mezzo secolo a darci di fiato per farmi ascoltare. Vi concedo la scelta delle armi e a che ora del giorno preferite colpire. Dietro quello che dico non c'è nessun altro mistero e nemmeno un doppio senso. Non capisco e mi sfugge perciò la ragione del vostro dissenso. Quando voglio e se voglio spiegarmi parlo lentamente. Ma oltre il muro c'è il tuo pregiudizio e poi più niente. Qui c'è il solito tuo pregiudizio e poi più niente. E poi più niente. Vi scrivo dall'ultimo tratto da farsi in salita, le dita a inventarsi ogni appiglio per non scivolare. Afferro bottiglie di piscio e mordo ogni cosa che mi possa saziare. Lo so che da un'altra distanza dai vostri gerani la mia vita può sembrarvi un pugno di perle di mosche. Sul ronzio degli insetti ci immagino canzoni mentre le gioie le tengo nascoste. Dopo tutto il casino creato, le troppe scommesse e altre cose che ho scordato, mi aspettavo che un po' ti arrendessi, ma ciò che è dato è già dato. e ai tuoi occhi sfuggiti al controllo ormai mi sento trasparente. Sopra il marmo c'è il tuo pregiudizio e poi più niente. Sento il solito tuo pregiudizio e poi più niente. Vi scrivo dall'ultimo tratto da farsi in salita, le dita a inventarsi ogni appiglio, una fine indecente. Domani ci regoleranno la luce e il contrasto e poi più niente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci ancora qua in diretta, sono le 22, due minuti primi, ancora mezz'ora, poco meno, per conoscere da vicino Fabrizio Emigli. Ci ha portato qualche suo disco, di livello stiamo parlando principalmente di Stelle in Eccedenza, ma abbiamo ascoltato anche questo pezzo dal vivo che ha vinto anche il premio che abbiamo citato, e più tardi passeremo anche a prenderti col tram, nel senso che andremo ad ascoltare anche il nuovo singolo di Fabrizio Emigli. Salutiamo anche il gruppo d'ascolto di Roma. Ah, giusto. Che ti sta sentendo via internet, chiaramente. Chiaramente sì, saluto da lontana Padova per voi romani. So che per voi è l'estero quasi. No, c'è sempre la cosa che mi stupisce sempre ogni volta è che faccio fatica a fare concerti, nel senso che poi c'è un pubblico pagante che, come cantava l'altro poeta, certo, lo sottolineerà. E ho la fortuna di avere sempre persone nuove che vengono ai miei concerti. Potenza di Facebook, per esempio. Certo, certo. Molti non li conoscevo e quindi mi hanno conosciuto attraverso la rete. E devo dire che ogni volta, almeno negli ultimi 4-5 mesi a Roma, ho avuto dei sold out inaspettati nei concerti, nei teatri. Anche questo. A Roma manca un teatro dove fare musica d'autore. Quindi ci sono spazi, per esempio la Domus Talenti, uno spazio teatrale romano, che ultimamente fa un discorso... sono molto attenti alla canzone d'autore. E lì negli ultimi 3 mesi ho fatto 2 concerti sold out, quindi con pubblico nuovo, che non, a parte i soliti affezionati, il gruppo, certo, d'ascolto che è in ascolto e risaluto, ma c'è un pubblico appunto attento che di volta in volta e scopre le mie vecchie canzoni. Certo, ti stanno anche vedendo adesso. Certamente. Dobbiamo salutare la Rossella, Flavio. Sì, dobbiamo salutare la Rossella, che è la tua fornitrice ufficiale da 20 anni e passa di giornali. Di giornali, sia giornali musicali sia giornali quotidiani. Esatto. Io posso salutare anche la presenza che c'è Bionda nello spazio, che non so il nome, però la nostra fotografa Chiara. Saluto Chiara e la ringrazio. E poi ricordiamo che pubblicheremo anche le foto scattate in questa serata, quindi con Fabrizio Emigli, all'interno della nostra pagina di Facebook. Quindi diventate nostri amici e accedete tranquillamente a tutte quelle che sono le fotografie che scattiamo durante la trasmissione e poi anche ai nostri podcast. Ci sarà anche quello di Fabrizio Emigli, certamente, nel brevissimo, lo stiamo registrando. Ottimo, proprio ottimo. Mantenente. Io vi ringrazio col cuore. Bene, allora, visto che c'è il gruppo d'ascolto ormai conclamato, tu hai scritto dei testi in italiano per le canzoni contenute all'interno del film cartone animato La sposa cadavere, esatto, e quel film di Tim Burton che era La fabbrica di cioccolato. Molto bello, molto particolare, soprattutto il protagonista Willy Wonka. Esatto. Ma vorrei sentire una cosa da te. No, sì, cioè cantata? No, no, no. La storia, ti la voce di Nani Umpa-Lumpa. No, era filtrato. Io ho fatto direttive di Tim Burton per tutto il mondo. Diceva: io voglio un solo cantante che deve essere anche quello che adatterà i testi nella lingua del paese, e deve essere lui a cantare tutte 150 voci dei nanetti Umpa-Lumpa. Chiaramente io cantavo con la mia voce, da adesso roca e da cantatore serio, e poi un bravissimo tecnico fonico filtrava il tutto dando frequenze molto basse e molto alte. Mi sono divertito un mondo. Tra l'altro, una cosa è capitata per caso, perché io ero in una sala di incisione e mi chiesero l'adattamento per una canzone di un film che era Before Sunset, forse. Io scrissi questo adattamento per questa canzoncina che era il brano finale del film, e poi quando appunto uscì la fabbrica, quando stava per uscire La fabbrica del cioccolato, mi dissero: ma te la senti di provare a scrivere l'adattamento? Assolutamente sì. Io scrissi i testi in italiano, poi mi dissero: devi farci sentire perché vogliamo sentire come cantano. Li cantai davanti alla responsabile della Warner quel giorno e mi disse: lo fai tu, li canti tu, perché tu sei l'Umpa Lumpa prescelto. E quindi feci anche questa esperienza divertentissima, veramente divertente. È un tuo grande amore il cinema in ogni sì, caso. Sì, assolutamente sì, anche se poi non sempre amo i film di Tim Burton, però sì, beh, è un grande amore. Credo che alcuni testi siano molto più film, molto più sceneggiature che in realtà testi di canzone, quando cioè, si sfiora il paranoico di questa parola. Assolutamente sì, anche in Fabbrica di cioccolato sì, effettivamente è tutto che va sul surreale, no? Cioè, quando si entra in questa fabbrica si sviluppano mille concetti, tutti tranne che quelli reali. Sì, esatto. Quindi con tutti i personaggi e con tutti i bambini che poi... Perché sembra un film per bambini, in realtà è un film che fa pensare molto anche gli adulti e soprattutto questi capricci dei bimbi che vengono puniti nelle più diverse maniere. È un film tratto dal libro di Roald Dahl, crudele, crudele, molto duro e non ha fine. Molti bambini sono impressionati, anche se sì, oggi non si impressiona più nessuno nel film. Io la cosa che ho fatto, perché mi arrivò la traduzione dei testi in inglese, però ho cercato di adattare, alla fine ho quasi riscritto completamente le parole perché erano... alcune frasi impronunciabili, non cantabili in italiano, però ho cercato di pensare ai bambini in sala, ai ragazzi in sala, e fargli capire quello che stava accadendo in qualche maniera. Penso di esserci riuscito, credo abbastanza bene, insomma, ed è stato veramente un lavoro divertente, che mi ha portato un po' in vacanza rispetto alle canzoni d'autore, alle canzoni, alle frasi che io canto di solito, insomma. E ce ne fossero dei lavori così, fra l'altro potrebbe ripetere di esatto sì. Bene, bene, allora abbiamo capito sempre nuove facce del nostro Fabrizio Emigli, che si è presentato qui come grafico in cerca di successo. In realtà il successo ce l'ha portato, e come, ce l'ha già con sé, e dopo questa trasmissione ancora di più, no? Con questo speriamo di avere comunque dato un buon appiglio anche per far conoscere i nostri ascoltatori queste stelle in eccedenza. Sono ben 13 le stelle. D'altra cosa, c'è anche un'eccedenza formata da 25 secondi all'inizio del pezzo, che è un intro, esatto, un po' particolare, arpeggiato, che forse voleva dire qualcosa, Fabrizio. Ma sa che mentre si sta in sala si provano le armonie, gli arrangiamenti, quindi il mio chitarrista stava suonando in maniera rilassata il refrain di Stelle in eccedenza e l'abbiamo... Si registra, basta, è andato lì al microfono e ha registrato. Tra l'altro c'è una traccia nel disco, sì, che è l'ultima, Pregate per noi, che non doveva esserci nel disco. In realtà il disco finiva alla traccia numero 12. Però avevo questo brano scritto negli ultimi giorni, insomma. Hai inserito, insomma. Sì, alla fine chiamai appunto Massimo, il chitarrista, che era al mare con sua figlia, stava passeggiando, e disse: Massimo, voglio inserirlo il brano, insomma. Lo arrangiamo al volo con chitarra portoghese, così lo mettemmo dentro. Quindi a volte i dischi nascono anche in maniera molto casuale. E una cosa vuoi chiederti, gli arrangiamenti... abbiamo curati assieme, li ha curati assieme, sì, non sì, solamente una persona, tutti no, quanti no, assieme, no, di gruppo, insomma, è stato un arrangiamento di gruppo. A parte la traccia di Una pietra sopra, che sarà fatta completamente da Alessandro Guisi, dal pianista, le altre abbiamo suonati come se fosse un live. Quindi un take, primo take. Assolutamente sì, quasi primo take. Sì, un po' ripulito, però in realtà sì, il senso di... Ma leggevo giorni fa di un disco fatto nella stessa maniera, live, quasi live. Ormai si suona così, sì, ormai si suona, non c'è più discorso di due note, no, poi no, il taglio, cuci. I Pearl Jam hanno quella maniera positiva di fare quasi live. Cosa? I Pearl Jam lo fanno. Sì, i Pearl Jam. Spesso e volentieri. Ecco, esatto, e anche tanti altri. A me è venuto in mente il Pearl Jam. No, benissimo, si sta risuonando per sì, fortuna. Si sta ritornando alle cose. Qualcosa sta accadendo, Flavio, hai ragione. Certo. Quindi col più... Prendiamolo al volo. Prendiamo al volo anche un altro pezzo da Stelle in eccedenza e andiamo ad ascoltarci anche questo Fatemi baciare la sposa. Blu Radio Sera. Fatemi baciare la sposa prima che salga all'altare, prima che schizzi una lacrima e un'ombra di pena dagli occhi del padre. Lasciatemi contemplare la forma gloriosa del seno e le rose adornare i capelli e una ruggine dolce a cospargerle il velo. fatemi baciare la sposa prima del lancio del riso, e il mazzo conteso fra vergini sciolga la morsa del loro sorriso. Andatevela a risciacquare quell'anima inconfessata, tracce di mandorle e sangue su quella che un tempo fu lingua inviolata. Fatemi baciare la sposa prima dell'atto di fede, e vi giuro su Dio, sul mio onore, che in fondo al suo cuore non metterò piede. Ma senti un po', bella mia, che sospiri e che occhiate che infestano i banchi, e guardale lì quante braccia a costringerle i polsi e scomporla sui fianchi. Fatemi baciare la sposa prima che lui se ne avveda, buttando giù Cristi e Madonne, perché è più geloso di quanto lei creda. Mi immergo nell'acqua santiera, trattenendo il respiro del pianto, e quando calerà il silenzio e la sera, avrò il volto di un santo dipinto, di un santo. Fatemi baciare la sposa e con le dita sciuparle il vestito, sospeso fra piatti e portate di un pranzo che sembra infinito. Ma guarda un po', bella, che coincidenza, indossiamo un identico saldo e la stessa medesima urgenza di metterci addosso qualcosa di caldo. Vuoi tu, baby, prendere come legittimo sposo l'impenetrabile sguardo geloso dell'oro che è dentro? Vuoi davvero stenderti sopra un lenzuolo di spine, strizzare il lampo di mille mattine in un pugno di luce? Un, due, tre, stella, e anche stavolta sono io che mi vendo, ma la TV stanno ormai trasmettendo per tutta la vita. Un, due, tre, stella, sbircio da sotto e vi vedo danzare, sbuccio una perla e la getto al maiale che ti sta abbracciando. Gli appuntamenti. E abbiamo ascoltato anche questo Fatemi baciare la sposa dal CD Stelle in eccedenza di Fabrizio Emigli, e stiamo piacevolmente conversando anche con l'autore, nonché cantante, quindi insieme cantautore. Eccolo qua. Allora, Fatemi baciare la sposa, questo inizio un po' pop e questo finale, come l'avevo indicato io prima, un po' sul paranoico. Finalmente è uscito fuori il pezzo. No, la cosa bella, veramente, non per far sbiorinarvi, ma sì, il fatto che si parla con Maurizio di sitar, si parla di musica, si parla di strumenti usati, è una cosa rara. Si fa Rai 3, si può citare le 3, la concorrenza, si può citare Radio 3, e qua. Certo. Perché di solito in giro parlare di musica, di strumenti usati, così non si fa mai. E noi abbiamo citato uno dei protagonisti di Rai 3, Stalteri, è venuto qua a suonare, quindi. Stalteri? Ah, è venuto qua a suonare, quindi dai. Ti ricordi che era il primo gruppo di Stalteri? Sì, sì, Piero Lunero. Mamma mia, straordinario. Mi sento a casa mia. Un gruppo straordinario. E c'era Gaglio Chiocchio, che è stato uno dei miei primi produttori. Ah, vedi. Io ero giovanissimo, andavo in hit, nella gloriosa hit di Micocci. Sì, certo, la famosa hit di Micocci. Del Mazzerò. Certo. E c'era Gaglio Chiocchio, che era il produttore, che poi ha scoperto, mi sembra, anche la stessa Grazia di Michele, forse. Sì, mi pare di sì. Fece un 45 giri. Esattamente. Quindi Gudrun era il primo sì, disco. Vabbè. Gudrun, esatto. Piero non è un po' straordinario. Che poi adesso sta andando molto bene. Alf Angel si chiama così, sempre di Arturo Stalteri. Sì, di Arturo Stalteri. Sì. Lui grandissimo. Sì, bravissimo. Allora, dicevamo, visto che abbiamo ancora pochi minuti, vogliamo renderli densi di musica con qualcosa live? Guarda, io faccio un brano live, di solito non faccio mai cover dal vivo, però ho messo nel mio primo disco una cover di Iannacci, che era Io e Te, sì. E in questo secondo disco una cover di Lauzi. Come mai di Lauzi? Perché trovo questo brano bellissimo. Io ascoltai questo disco che era forse un Persone, mi sembra, o Alla Grande, adesso non, certo, non riconosco la vostra memoria. E c'era questa canzone, secondo me, meravigliosa. Una piccolissima canzone d'amore, molto semplice, molto lineare. Quindi non solo scuola romana, no, anche scuola genovese in questo assolutamente caso. Sì. Io amato molto la scuola genovese, ancora oggi, insomma. E Lauzi è stato, secondo me, un grandissimo artista, poco riconosciuto, poco... Sì, conosciuto solamente perché Battisti gli ha scritto 2 o 3 pezzi famosi. Ecco, e poi non tutti sanno che ha scritto quel testo bellissimo di Al mio nell'universo. Certo, e poi molti non sanno che ha tradotto tutti i pezzi di Paul Simon. Ha fatto Paul un disco, Simon, sì, ha fatto un disco di pezzi di Paul Simon, introvabile, non mai stampato, non si sa mai questa perché. Questa mancava anche a me. E ha fatto un rifacimento meraviglioso, ti rubo ancora un secondo, di America di Paul Simon. Ma questa cosa. Ha fatto un disco bellissimo su tutti i pezzi di Paul Simon. Secondo me è un grandissimo autore, certo, certo. Un grandissimo personaggio, molto poco televisivo all'epoca, quindi non passava e comunque non aveva i requisiti, i canoni televisivi. Se oggi si fosse presentato a X Factor, non so se l'avrebbe cacciato via passato dopo 3 secondi. E comunque, comunque i bambini lo conoscono, sì, perché la bella tartaruga. Esatto. Quindi, esatto. Vabbè. Allora spazio a questa bella canzone. Guarda, di Bruno mi Lassi. Faccio questa piccola canzone d'amore, questo gioiellino, secondo me, sperando di cantarlo bene. Questa notte anche la luna si è incantata, su nel cielo pigramente si è sdraiata. Guarda te che innamorata stai guardando me, e chissà se pure lei si chiede perché. Perché tutto è così strano, amore mio. Fino a ieri dovevamo dirci addio, ma è bastata una parola sola tra di noi, ed adesso io ti voglio e tu mi vuoi. E improvvisamente canti una canzone, come nasce un fiore a maggio sul balcone, ed il mondo è tutto fermo che ti ascolta. Che bello far l'amore di una volta, e ascoltandoti la vita se ne va. Forse tu sei quella giusta, chi lo sa. Per incanto il nostro tempo si è fermato, ed io sono di nuovo innamorato. Questa notte anche la luna si è incantata, chissà mai che pure lei sia innamorata. La la la la la la la la la la. Per incanto il nostro tempo si è fermato, ed io sono di nuovo innamorato. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questa canzone di Fabrizio Emigli, una dedica a Bruno Lauzi, con questa bella canzone forse da molti dimenticata. Una curiosità, all'interno del tuo libricino che accompagna il CD, tra le altre cose molto carino, c'è una citazione di Tom Waits. Come mai hai scelto proprio Tom Waits come, diciamo, dedica di mezzo? Ma intanto perché amo Tom Waits da sempre, insomma, anche prima che lo scoprissero Luca Sciulli e Ruggeri. No, forse lo stesso periodo. Perché ero in autobus e stavo andando appunto a registrare il disco, Stella in Eccedenza, E trovai nella pagina culturale di Repubblica, mi sembra, questa frase, che secondo me è perfetta per chi fa canzoni. Posso leggerla? Certo. E la frase dice così: incidere una canzone è come catturare un uccello. Devi farlo senza rischiare di ucciderlo. Perché noi molto spesso, quando registriamo canzoni in sala, e a volte per la fretta, per la poca... a volte anche il poco rispetto che abbiamo per le nostre canzoni, tendiamo un po' a buttarle via. E invece in realtà inciderle è come catturare un uccello, cioè in quel momento devi prendere il meglio di te e della canzone stessa. Ed è un lavoro diverso poi dal farla dal vivo, tu puoi farla dal vivo in 100 modi diversi, ma nel momento in cui la fai in sala e la metti su disco, quindi la imprimi sulla roccia, sul marmo, devi rispettarlo e non ucciderla, quindi devi realmente tirargli fuori il massimo e il meglio. Io non so se ci sono sempre riuscito, penso sia abbastanza difficile. Vuole essere un messaggio anche per le case discografiche, che molte volte mettono fretta all'artista e poi lasciano tutto in mano di un arrangiatore sui generis a volte. E fanno anche un'altra cosaccia, che se l'artista va bene è tutto merito loro. Se va male, la colpa è dell'artista. Certo. Nella hit non era così, però. Nella hit non era così. Lo so. Nonostante la canzone. Nonostante Vincenzo, sì, che lui era uno che giostrava gli artisti, però dava la possibilità agli artisti. Ma assolutamente sì. Io ho il primo impatto con il vecchio Micocci. Certo. E aveva ascoltato la mia cassetta, quindi ero veramente giovanissimo. E lui aveva scritto su un fogliaccio la scaletta già di un ipotetico LP, non si fece mai, ma pensando appunto a quale canzone far seguire all'altra, non si fa più. Intanto adesso si fanno dischi con 28 tracce, molto spesso ne salviamo 6-7, poi il resto è riempitivo. Lui invece aveva già in mente le 11 canzoni di quel disco, quindi era uno che veramente ascoltava le cose, guardava negli occhi l'artista. Poi non sempre ci ha preso, chiaramente, a volte certo, sì. Gli è sfuggito di mano qualche artista, a volte anche ha sbagliato produzione, ma era normale. Però almeno ci metteva l'anima, almeno l'ascoltava. Non facevi l'anticamera di ore e ore e ore fuori dall'ufficio, entravi dentro. I quadri grigi che canta Alberto Fortis erano i veri quadri che c'erano in quell'ufficio, e quindi tu stavi là fuori, sentivi, si parlava di musica. Poi dopo si parlava di saponette, di qualcos'altro. Certo. E poi l'RCA ha chiuso. L'IT era l'etichetta cantautorale dell'RCA. Esatto. Quello era. E non solo, proprio. E non solo. Ebbe il grosso, ebbe il boom con tanto per cantare. Sì. Continuo a Manfredi, quindi. Sì, certo. Mettiamo un attimo da parte quelle che sono le stelle in eccedenza, anche se ci è piaciuto molto percorrere insieme le tracce di questo disco. E mentre aspettiamo il nuovo lavoro di Fabrizio Emilie, una nuova promessa di ritornare qui da noi, vorremmo sentire anche quello che è il singolo che sta andando adesso e che stai promuovendo. Come si intitola, Fabrizio? Ma il singolo che hai in mano è un altro giocarello, ci siamo regalati a Roma con Stefano Mastruzzi, che è il direttore artistico del St. Louis, sì. Questa scuola romana di jazz dove insegnano Danny Orea, Enzo Pietropaoli, così. E con l'orchestra del St. Louis, orchestra vera, quindi per la prima volta che avevo un'orchestra alle spalle di vera sezione fiati, abbiamo, io ho scritto questa canzoncina che si chiama appunto Passo a prenderti col tram, e l'abbiamo arrangiata appunto con l'orchestra. E c'è alla fine un regalo per me grandissimo, che è un assolo di Marcello Rosa, che è il più grande trombettista italiano. Certo. Bene, allora ascoltiamo questo pezzo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Porterò ciambelle al posto delle rose, tu avrai caviglie snelle e dita zuccherose. Tempo di leggermi un giornale e rinfrescarmi, e passo a prenderti col tram. Avrai reggipetto a vista e a me si vedrà che ho pianto, perché avrò gli occhi bassi, ti sbircerò soltanto. Compro i biglietti da staccare e vidi marlie, passo a prenderti col tram. Non vale, c'è questa nebbia che piovigginando sale, pregherò Dio che mandi un vento di maestrale a spazzarci le strade del centro. Compro una birra, la incarto e passo a prenderti col tram. Tua pistola d'acqua farà scappare i cani. Se la fame sarà troppa, moltiplicheremo i pani. Cerco di togliermi il catrame dalle suole, passo a prenderti col tram. Ti staccherò un assegno per farci un origami, o una cambiale in bianco per scriverci che mi ami. Svuoto un sacchetto di lavanda nelle tasche, passo a prenderti col tram. Leggero sarà ogni slancio per non prenderci sul serio, e ad ogni curva chiederemo se è davvero proibito a calcarci nel centro. Rubo un transistor, lo accendo e passo a prenderti col tram. Se Dio vuole, qui va a finire come sempre che si muore, e un giorno o l'altro che ci becchi il controllore in cappello, in divisa verbale, e libero un posto a sedere, passo a prenderti col tram. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo capito che si può anche passare per un appuntamento e prendere la persona cara col tram. Assolutamente. Esattamente. Benissimo. Passo a prenderti col tram, questa bella canzone sul finale della nostra trasmissione, dove abbiamo conosciuto quella che è la musica di Fabrizio Emigli, dapprima con Stelle in Eccedenza, poi adesso con Passo a prenderti col tram, e poi ancora più avanti nel tempo ci sarà anche questo nuovo CD. Che allora, spero. Sì, incrociamo le dita, speriamo di sì, anzi. Sì, sicuramente. Visto che hai già preparato il tutto, siamo come dire, al 90% dell'opera. Ci quel 10% quasi. Che manca di ingranare un attimo, però. Vale, i brani ci sono: c'è questo brano nuovo, c'è Passapartout col tram, c'è un altro brano nuovo. Manca soltanto appunto la scelta, quindi scegliere quali brani sono, quale veste dare al tutto e poi buttarlo lì in pasto. Sì, quindi è pronto, dai, facciamo. Diciamo che è pronto. Ricordiamo pronto. I nostri ascoltatori. Torno qua? Sì, sì, certo. Sì, certo. Ti aspettiamo, no? Anzi, tienti riservata la sedia, mi raccomando. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori come si fa per entrare in possesso di Stelle in Eccedenza e anche del singolo Passo a prenderti col tram. Ci si collega al sito che è fabrizioemigli.it. Oppure al sito della mia casa editrice che è appbeat.it, oppure al sito del St. Louis, quindi St. Louis Call Jazz, se non dico male, sì, aspetta, lo leggo a tutto. No, qui non c'è, comunque St. Louis oppure appbeat o fabrizioemigli.it o la pagina di Facebook, quindi poi lo spedisco direttamente io, personalmente io. Benissimo, quindi niente di meglio che avere la spedizione a cura direttamente dall'artista che propone anche queste canzoni. Vabbè, si torna un po' indietro, si può dire, nel tempo, mentre ci sono tutte queste major, queste case distributrici che fanno come dire, la voce del padrone, tornare un po' al mittente destinatario diretto, senza tutti questi passaggi. Diciamo prima del carretto, ma c'è qualcuno, non ricordo bene chi, che sta facendo i suoi dischi e li personalizza uno per uno, tagliando a mano la copertina, li sta spedendo. Tra l'altro, sì, è una cosa bellissima. Tra l'altro, saranno tutti i pezzi, uno diverso dall'altro. Facci sapere chi è. Ma adesso mi viene in mente. E ce lo sta facendo, quindi fa i dischi, li masterizza. Certo. Non è un nome, un nome, non è un. E poi fa la copertina a mano con un fiocchetto rosso personalizzato e spedisce a ogni persona col nome dell'acquirente il disco. E secondo me è una formula nuova. Bello, bello. Bene. Interessante. Allora, Maurizio, il tempo a nostra disposizione è pressoché finito. Certo. Ci dispiace però lasciare questa conversazione che è stata davvero splendida. Perché siamo al Folk Studio questa sera. Siamo al Folk Studio. Manca la campana. Non l'abbiamo citata, ma sappiamo che ce l'hai a casa. Quindi la prossima volta col trasporto eccezionale ce la porterai qua. Ma guarda, molto bello, faccio insomma. La faccio. Così sentiamo anche il suono di questa campana dal vivo. Bene, allora Maurizio, velocemente, noi ci salutiamo qua i nostri ascoltatori, lasciamo il microfono aperto per Fabrizio Emigli per il suo ultimo pezzo live, dopodiché ricordiamo un altro appuntamento sempre in questa serata. Sì, avremo fra qualche minuto, dopo Fabrizio, Patrizia da Quidara con Agostino e ingloriosamente sempre con col sottoscritto. Bene. Ce l'ho sempre io. Quindi andiamo al make-up un attimo, Maurizio, ti sistemiamo pronto per la seconda manche. Allora, da parte di Flavio Bilato, a risentirci. Maurizio sta qua con Fabrizio Emigli e ascoltiamo insieme l'ultimo pezzo. Come si intitola, Fabrizio? Terraferma. Bene, grazie Fabrizio, grazie a voi. Buon rientro in quel di Roma, salutiamo anche il gruppo di ascolto che ci è stato vicino in questo frangente. Ma se fa così con la mano non ti vedono. Non mi vedono. No. Va bene, allora grazie ancora, noi vi salutiamo. Grazie, ciao, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Io non dimentico tutto il male di questo tempo, ma dichiarandolo so di farci un ritaglio dentro. Ne smusso gli angoli, sovrappongo l'essenza al vuoto, ravvicinandomi. Se da qui ci vedessi poco, io non accelero, ma è il futuro che scorre in fretta. Cambio soprabito, e la tua voce se mi va stretta. Raccolgo plastiche, scure infinite sulla tua carne. Trasmetto porcherie, facendo sforzi per evitarne. Restiamo immobili, sperduti in qualche terraferma. Viaggiamo poco e ci cerchiamo in questa notte. Crediamo in strane luci, in sogni e santa pace eterna. Inaffondabili, cresciuti in qualche terraferma. Terraferma. Io non mi giudico, ma è il mio cuore che si risponde. Mi piazzo ai margini come qualcosa che si confonde. Non ho più muscoli, cambio pelle continuamente. Traduco poesie, saltando i versi per farne tante. Io non dimentico tutto il male di questo tempo, ma dichiarandolo so di farci un ritaglio dentro. Produco macchine, carburanti di fiamma pura. Riduco missili dentro gambi di gomma scura. Restiamo immobili, sperduti in qualche terraferma. Viaggiamo poco e ci cerchiamo in questa notte alterna. Crediamo in strane luci, in sogni e santa pace eterna. Inaffondabili, cresciuti in qualche terraferma. Terraferma. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Spot. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con